finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. È solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. 22:58 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa. Ce la siamo presi comoda questa sera. Vi annuncio subito, vi preannuncio che appena terminata la sigla avremo un intervento che ci parlerà della iniziativa antifascista di Ostia di sabato prossimo, quindi all'ascolto tutti e tutte per questo aggiornamento, per questa informazione. Sì, perché Radio Onda Rossa è una radio antifascista. È una radio antirazzista, è una radio antisessista. È bene mettere subito in chiaro le cose. Come si diceva un po' di tempo fa, si è antifascisti, antirazzisti, antisessisti, senza se e senza ma. Vi ricordiamo la campagna di sottoscrizione della radio che abbiamo ormai intrapreso da più di un mese, giù di lì. Poco più di un mese, che riguarda 30 per 1000, che significa 30 euro per 1000 di voi, che garantiscono alla radio di poter trasmettere per un anno senza l'incombenza di bollette, di di imprevisti che ci rendono la vita impossibile e che mettono a rischio la possibilità della radio di continuare a trasmettere, a fare il suo lavoro di controinformazione. Ad essere la voce dei movimenti. Di meglio di me di quanto sappia fare ci sta il sito della radio www.ondarossa.info, oltre a tutti i podcast dei salienti, delle cose salienti che la radio manda in onda, oltre alle informazioni sulla radio stessa. Proprio in bella mostra all'inizio della pagina, in cima, ci sta il logo della campagna 30 per 1000. Basta cliccarci dentro ed è spiegato il motivo per cui abbiamo intrapreso questa iniziativa di finanziamento della radio. Perché è grazie al vostro contributo, che si manifesta in molte forme differenti, che la radio sopravvive libera, senza fare pubblicità, senza essere serva di nessuno, dal 1977. Quindi www.ondarossa.info. Ci sono molti modi per sottoscrivere per la radio. Ci piacerebbe anche che arrivasse attraverso, ma non perché ci piace, perché ci piace dirlo in realtà. Il 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale, Intestare a cooperativa culturale laboratorio 2001 00185 Roma San Lollo. questo vi abbiamo detto anche dove siamo, via dei Volsci 56, Roma, San Lorenzo, al primo piano. L'altro numero essenziale, proprio per comunicare con voi, per avere il feeling giusto, la giusta rispondenza, corrispondenza. In qualunque modo lo usiate, cioè per farci delle corrispondenze, come fra pochi istanti avverrà, oppure semplicemente per trillare, per dare, per illuminare di rosso la radio più rossa che c'è, la redazione della radio più rossa che c'è, 06491750, le vostre comunicazioni ondarossa@ondarossa.info, la mail della radio. Per disturbare il sottoscritto, 25 o'clock, 25 scritto al numero, 25 o'clock, @ondarossa.info. Pronto? Ci sei? Accidenti, è caduta la chiamata. Ma eccoci qua invece in diretta. Pronto? Buonasera. Allora, eccoci. Buonasera a voi e a chi ci ascolta. Ciao Pepo. Ciao. Anticipavamo poc'anzi della manifestazione antifascista che si terrà quando, a che ora e dove. Allora, sì, la manifestazione antirazzista e antifascista si svolgerà a Ostia dalle 15:30 questo sabato 6 aprile. Ed è la risposta che la città, ma devo dire la spinta è arrivata principalmente dagli studenti e le studentesse di un ragazzo aggredito qua sulle strade del litorale romano, e questo insomma è un buon segno in un quartiere totalmente desertificato, che per un periodo ha visto scorribande dei fascisti, ma ormai è praticamente desertificato a livello politico. Quindi speriamo bene, speriamo anche nel meteo, perché non so sabato che tempo farà, ma comunque in ogni caso si sfiderà anche la pioggia a partire dalle 15:30 alla stazione di Lido Centro, quindi anche per i romani e le romane che ci ascoltano, facilmente accessibile tramite il trenino, insomma ci si fa un po' una trasferta, dai, chiamiamola così. Speriamo che ci sia il sole, così uno magari si fa un po' il bagno, cioè si fa il corteo e poi, come cantava Gabriella Ferri, tutti al mare a mostrare le chiappe chiarissime, perché il periodo siamo certo, tutti bianchi di aprile. Te accennavi appunto questa desertificazione, Ostia, che un paio d'anni fa è andata all'onore delle cronache per la nota aggressione avvenuta, diciamo, in diretta ai danni di un giornalista, insomma il solito scandalismo che però non ci regala nulla poi della verità effettiva che si respira, che si vive in tutti i giorni in una città, quartiere periferico di Roma. Non so, vuoi così anche ricordare appunto o spiegare meglio che cos'è questa desertificazione, questa totale assenza di un qualsiasi tipo di intervento, di protagonismo politico? Allora, partiamo col dire che i 5 Stelle, che si erano proposti come forza di cambiamento, insomma l'abbiamo visto più volte la dialettica con cui si presentavano, questa forza di cambiamento, ma sul litorale sono veramente assenti totalmente, quindi ovviamente avevano la vittoria spianata dopo che a Ostia il presidente di municipio all'epoca Tassone fu addirittura arrestato per mafia capitale, ai domiciliari, per le sue relazioni con Buzzi. Quindi capite bene che con una destra sostanzialmente all'epoca ridotta all'osso, perché ancora molto divisi, con un presidente municipio del Partito Democratico che finisce agli arresti, capite bene che l'unica forza che poteva vincere e trionfare era il Movimento 5 Stelle, tra l'altro avendo la Raggi già eletta, perché per un periodo non si è votato. Quando si votò per la Raggi qui a Ostia non si votò, perché il municipio era commissariato. per le varie vicende appunto della mafia e tutto e quant'altro che abbiamo anche raccontato da questi microfoni. Quindi il Movimento 5 Stelle si proponeva come forza di governo, sostanzialmente ha vinto e non ha fatto nulla. Ha vinto, va detto, e noi dalla radio ci siamo sempre molto attenti a questo dato, con un astensionismo da record. All'epoca votò il 30% circa, quindi vuol dire che più 70% delle persone di questo quartiere, che non è solo Ostia, anche Acilia è un'altra parte molto forse popolosa e molto proletaria. Questo è il dato politico più significativo. Esatto, questo è il dato politico principale. La desertificazione poi, ecco, saltata agli onori delle cronache, perché un consigliere municipale eletto nelle liste di Casa Pound, d'accordo, però insomma sostanzialmente non è cambiato nulla, non si è mosso nulla in questo quartiere che vive così d'inerzia. Sì, è vero, c'è stato l'episodio della testata degli Spada, però anche lì insomma veramente non molta immagine, molta società, sì, dello molte media e poi in realtà poca sostanza. Esatto, assolutamente. E quindi questo protagonismo anche da parte dei ragazzi, dei giovani, della gente, dei pischelli delle scuole, insomma è sempre qualcosa che invece ci riempie non tanto di speranze ma di auspici proprio esatto, di terreno, sì, per poter far sì che questo 70%, ecco, possa, dentro questo 70% possa tersersi una rete, una tela di relazioni, di protagonismo. Guarda, è nato tutto da loro. Io ne parlavo qualche giorno fa proprio dai microfoni della radio, avendo chiamato insomma una ragazza del liceo Ancomarzio. È nato tutto perché questo ragazzo pestato in maniera veramente barbara da 10-12 persone sul lungomare, perché di colore pelle scura, quindi questo ragazzo 17enne, forse anche di meno, insomma non maggiorenne, che tra l'altro si è anche vergognato di questa storia, non ne ha voluto parlare. Evidentemente invece i suoi compagni e le sue compagne di scuola hanno detto no, qui c'è qualcosa da fare, bisogna fare qualcosa, e hanno scelto di fare un'assemblea pubblica aperta sabato scorso. E qui vorrei aprire un altro capitolo. L'assemblea dove si è fatta? Si è fatta in un parco pubblico. Perché? Perché questo territorio non ha spazi di auto-organizzazione, non ha spazi per poter fare un'assemblea, cioè bisogna andare in un parco perché non ci sono sostanzialmente altri posti. Io ricordo purtroppo altre assemblee che si sono tenute addirittura nello spazio di un oratorio della chiesa, quindi capite bene che non c'è praticamente agibilità politica anche da un punto di vista strutturale, fisico. Cioè, ora va bene perché il tempo è stato buono, ma se piove come la fai un'assemblea a un parchetto? Poi sì, ci si organizza e si fa tutto, però capire bene che anche non avere nessuno spazio per un territorio enorme come questo è un problema strutturale, è un problema politico. Quindi comunque, detto ciò, perciò i ragazzi l'auto-organizzazione, immediatamente appunto, ecco, come dici te, appunto dovessi esprimere in un parco pubblico, trovare immediatamente una soluzione nel bene e nel male, però già costituisce un elemento di significativo ripresa di parola, come dire, di presentarsi già come un soggetto. Durante questa assemblea è stato deciso il corteo poi di questo invece? Sì, esatto, sì, era abbastanza ferma la volontà di lanciare un corteo di risposta appunto antirazzista e antifascista. La proposta è stata ovviamente accolta all'unanimità, essendoci anche altri compagni e compagne che da anni fanno politica su questo territorio, però ripeto anche da un punto di vista dell'auto-organizzazione molto, certo, molto sfilacciati, perché certo, appunto compagni che vengono da realtà e storie diverse, che però ogni tanto si ritrovano purtroppo a seguito di fatti negativi, che è il pestaggio di uno per qualcos'altro, però insomma l'importante è rivedersi, partecipare, invitare generazioni diverse che finalmente, sì, certo, riescono a relazionarsi, insomma a parlare. Questo è sicuramente il dato positivo. Benissimo. E poi la volontà soprattutto di scendere in piazza, perché certo, insomma poi portare i corpi di nelle strade è sempre tutta un'altra esperienza. Certamente. Benissimo, allora vuoi ricordare le date, la data precisa, l'ora, il luogo, così che ce lo possiamo fissare bene nella mente per questo sabato? Certamente, allora corteo antifascista e antirazzista a Ostia, a piazzale, partenza piazzale della stazione di Lido Centro alle ore 15:30. Vi aspettiamo tutti e tutte e speriamo soprattutto che sia una bella giornata col sole. Da ogni luogo della città di Roma. Da ogni luogo, sì, perché ripeto, Ostia è anche facilmente raggiungibile, sebbene sia distante, però almeno il trenino c'è, si scende a Lido Centro, possibilmente. Adesso capiamo anche ci dovrebbe essere una punta romana proprio a Piramide per prendere, per i compagni romani e le compagne, per prendere il treno tutti insieme, la radio essere anche più sicuri. Esatto, sì, poi diffonderemo anche tra il sito, insomma, ulteriori corrispondenze in vista del di sabato, dell'avvicinamento al corteo, lo diffonderemo con maggiore ufficialità, ecco. Benissimo. Ok, allora ti ringraziamo molto, buon all'ascolto e ti aspettiamo ovviamente anche qua negli studi una sera di queste, anche se assolutamente è vero, sì, le sì, enormi sì. difficoltà. Va bene? No, non vedo l'ora di arrivare. Io ti saluto, ti ringrazio, Fefo, e un saluto a chiunque stia ascoltando. Grazie, bella, grazie a te. Un abbraccio, ciao. Ciao, Fefo, ciao. Inoltre, anche se ci aggiungiamo appunto alla corrispondenza appena mandato in onda, che per le note vicende ne abbiamo parlato diffusamente oggi nella mattinata con diversi interventi dei noti fatti di Torre Maura, e questa sera a Torre Maura occupata ci stava una cena antifascista appunto, e c'era l'appuntamento in quel quadrante di Roma per compagne e compagni di recarsi in quella zona. L'appuntamento era per un po' di ore fa, per le 19:30-20, però penso che insomma non abbiamo avuto ulteriori aggiornamenti, ma penso che l'appuntamento sia ancora valido per chi si trovasse specialmente a passare o a trovarsi da quelle parti. Allora vediamo, perché sì, vediamo come va, dai, la scaletta è pronta, ci stanno diverse cose da mandare. Dici, vabbè, ma come fai a collegare l'antifascismo, l'antirazzismo, eccetera? L'antisessismo con una scaletta che mandi bene. Ci proveremo. Sì, perché questa sera parlavamo di un fatto di contaminazione. Cioè, a un certo punto, dagli anni 70, ma poi un po' negli anni 80 e soprattutto negli anni 90, la musica cambia, come dire. Succede a un certo punto che le band, chi suonava la forma concerto, si mischia, entra con un'altra forma di comunicazione che le era stata contigua, complementare, che era quella di chi invece utilizzava i piatti in vinile essenzialmente all'epoca, o altri marchi ingegni come i nastroni Revox, roba che c'era all'epoca. poi perché dagli anni 90? Perché negli anni 90 entrano i computer, quindi tutta questa roba che si faceva a mano diventa molto più semplice. Figure si sovrappongono, addirittura entrano i DJ dei personaggi che muovono i piatti e gli altri marchingegni, non solo in studio di registrazione ma anche live. Diventa un vero e proprio strumento musicale, quello del una propria professione musicale, quella del DJ, portando con sé la propria cultura, cioè normalmente. L'idea del disco era stata la massima, la summa, insomma la cosa più che ogni gruppo quasi si prefiggeva, ogni formazione, ogni collettivo, che diventeranno sempre più collettivi appunto i gruppi fatti in questa maniera, con il DJ a carico, insomma, era quella di fare un concept album, cioè un lavoro che ha tutta una sua narrativa interna da ascoltare dall'inizio alla fine. In cui si portava avanti un concetto, un discorso, una tematica, un'idea. Con l'innesto del DJ invece questa roba qua viene completamente ribaltata. E cioè fare un disco con 50 cose differenti in cui entrano tutte le influenze possibili. E quindi un disco da ascoltare tutto insieme, ma come fosse quasi una trasmissione radiofonica o una serata danzante. È per questo che abbiamo iniziato con questi Urban Delights, un duo. Molte volte si parla di gruppi composti da due elementi, insomma, uno che manipola e uno che suona. Urban Delights, anglo-tedeschi. Di cui abbiamo ascoltato un po' le prime tracce del disco. Avremo modo di riproporvi semmai questo lavoro, che ormai è piuttosto datato e che mandammo in onda sovente negli anni passati. Abbiamo parlato molto, non parliamo più, anche perché le scalette appunto si fanno così. Cosa c'entra questo con l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo? Probabilmente c'entra con una predisposizione mentale di idee. Atte all'accettazione, al confronto. Fare cose fighe insieme. Che comunque è sempre un antidoto buono all'antifascismo. Al fascismo, e quindi un ausilio all'antifascismo. Lavoro del 2006, questo qui, invece che va in onda ora, LCD Sound System, un disco che credo sia più o meno scaricato tutti in automatico della radio, quindi non sentirete nulla di nuovo rispetto a quello che mandiamo in onda da queste frequenze, però sentito così. Excuse me, I'm leaving. Cambiamo da Urban Delights, quindi le sonorità, l'approccio. In un mondo un poco più oscuro, ma sempre zompettante. You say it's tragic. We left the magic. Sesta traccia on repeat per questo lavoro di LCD Sound System, a Radio Onda Rossa 25 o'clock. of your paranoid heartbreaking beats on rip. We'll be right back. it, get it if you want light. Come get it if you want light, light, light. Wanna shed light if you wanna roll them dice. If you're looking for a fight, cause you came home late last night. If you blew all your funds, if you broke as fuck. If you come home to find out they repoed your truck. If you're hustling your ass, if you're huffing that gas. If you need the cash quick fast for the bad checks you passed. If you run out, jump out and hide all your stash. If you wanna live your life from the start to the last. If you wanna start a revolution, but you ain't got no solution. Wanna hit that prize coochie, wondering if she really douche. If you wanna get high, if you wanna ride, then ride. If you wanna fly, then fly. Ain't nobody stopping you tonight. If you wanna sit at home with a hard log, looking at white broads and a catalog. If you hit like a dog, if you screaming like a hog. If you done played the fool, if you done paid your dues. If your daddy made you go to school with a pig shit in your shoes. If you want light, come get it, get it. If you want light, come get it. Walking down the street trying to peep open curtains. If you wanna get cash, get cash. Wanna get ass, get ass. Wanna get dead ass, wanna shiv ass. Want your cred ass, then be my guest. If you live by the gun, if you're living in the past. If you're waking up every day trying to find that righteous path. If you hold out your hands for a meal in a sack. If you're checking out them ladies in the club from the back. If you got a fetish for the blonde with the backwoods jaw. If you done lost your job for fucking in the bathroom stall. If you got a dirty mouth. If you're always on the prowl. If you're on your knees crying, please, nobody make a sound. If your girl's loving it, how you rubbing it. Now you wanna hit from the back and covering it. Ain't nobody stopping you. Shut the door, make it last all through. If you seen the dark side of the sun and the end has just begun. If you wake up in the middle of the night screaming, Lord Jesus, I'm the one. If you want light, come get it, get it. If you want can't stop tricking. If you're holding on for dear life, just waiting for the plot to thicken. If you fought overseas, if you're loving that breeze. If you got 2 minutes to feed, just begging for another taste of that sweet. If you're cutting that steel, if you're harvesting fields. If you're working on the kill floor and you wanna tell them how it feels. If you're staying like a man, if you're taking every chance. If you put out your hand to the Lord, but all you get back is sand. If you wanna rise above confusion, wanna live to see the future, get a doctor, cut them sutures. Walking down that road to lose. If you wanna get right, if you wanna shine the light. If your man's out every night, if you got your shit tight. If I'm lost. 23:35 minuti prima Radio Onda Rossa. Questi sono Sheeran Massive. Una band che nasceva nei primi anni 2000. No, would you hear me till I'm done? If you want light, uscirono nel 2003, quindi l'anno prima, 2 anni prima di LCD Sound System. Partendo probabilmente da un orizzonte differente, quello della grande fama raggiunta da Rage Against the Machine, quindi della necessità di fare una band che alternava delle basi piuttosto pesanti. Un MC è venuta invece una cosa molto più varia, come potete ascoltare, che un tenente dub, reggae, sonorità sempre piuttosto esotiche. Come si sa, molte volte ci stanno dei momenti importanti, nodali dentro la storia degli uomini e delle donne e delle loro cose. E come sapete, ci giriamo parecchio intorno. Il 1977 è un anno particolare. per tanti punti di vista, per il punk, per altre cose, insomma, comunque è ricorrente questo 77. Ma questo ci interessa poco, per dire però che in quel momento ci stanno dei big bang iniziali, delle scintille che ovviamente vengono da un prima, non c'è nulla che si crea in un momento, però in alcuni momenti notari della storia ci stanno concentrate un sacco di cose che succedono piuttosto nuove in un breve lasso di tempo, fra cui anche questa roba qui di cui parlavamo stasera, cioè l'introduzione di elettronica in questo caso essenzialmente, ma anche di un'attitudine da producer, diciamo, nel modo di suonare. Stiamo parlando veramente di un gruppo seminale che è ascoltato ancora oggi, ci lascia sorpresi per la novità, per l'attualità e per perspicacia della idea. Stiamo parlando di Johnny Rotten ancora, per questo c'entrava il 77, con il gruppo immediatamente dopo Sex Pistols, e cioè da capo Public Image Limited, The Body. E vabbè, sì, insomma, se ne possono dire tante, ma la voce di Johnny Lydon, Johnny Rotten, è assolutamente la voce più punk che sia stata creata. 25 o'clock, onda rossa da capo. for the wholesome American thanks for a continent to despoil and poison. Thanks for the Indians to provide a modicum of challenge and danger. Thanks for the vast herds of bison to kill and skin, leaving the carcasses to rot. Thanks for the bounties on wolves and coyotes. Thanks for the American dream to vulgarize, falsify until the bare lies shine through. Thanks for the KKK, for the nigger killing lawmen feeling their notches, for the decent church going women with their mean, pissed, bitter, evil faces. Thanks for kill a queer for Christ stickers. Thanks for the lavatory aids. Thanks for prohibition and the war against drugs. Thanks for a country where nobody is allowed to mind his own business. Thanks to a nation of fakes. Yeah. Thanks for all the memories. All right, let's see your arms. You always were a headache. You always were a bore. Thanks for the last and the greatest betrayal of the last and greatest of human dreams. For the drugs. Thanks but not thanks. Gioco di parole per Ministry, ovviamente. Il loro lavoro del 2013. Come sempre, Ministri ricchi di influenze e di fantasia nel rimiscelare nel loro stile suoni di svariata provenienza. To get acid, you can get it anywhere. Yeah. Sentirà sicuramente comunque mezzanotte 06 minuti primi Goldie a Capio Fierro. Un abbraccio forte a Capio Fierro, lui ne ha bisogno. Of you, Goldie. Produzione del 2017 a Onda Rossa 25 o'clock 06491750. Dopo You Have Come a Long Way Baby di Fatboy Slim, riedizione targata 2018 del disco invece originale del 1998. Di Acid 8000 e poi Goldie sotto la nostra voce. Time and a place to let your mind drift and get out. there's a time when the cord of life should be cut, my friends. I believe there's a time when the cord can be cut and this vision ends. But I'm gonna die in a place that don't know my name. And I'm gonna cry in a space that don't hold my name. Se la descrizione che facevo prima di questa contaminazione con il producer, il DJ che si mette ai comandi e cerca di organizzare varie sonorità e vari diversi artisti che partecipano al progetto in questo lavoro collettivo, parliamo di Uncle. Tutti lavori preziosi, in questo caso avrete riconosciuto la voce. Di Richard Ashcroft, voce dei Verve. Formazione indie British pop dell'epoca. A curare le basi, in questo caso è DJ Shadow. We'll be right back. Uncle Lonely Soul. Kowalski, in honor of the last American hero to whom speed means freedom of the soul. The question is not when he's gonna stop, but who is gonna stop him. Kowalski, Automator Remix, Primal Scream. Radio Onda Rossa. We'll be right back. sento dentro, sono un'anima spenta in un corpo che tenta di non morir di questa morte lenta. Che sia pur vivo, oh, ma che almeno io non senta. Sensibile e dolente, cerco un cuore che non menta per vivere e soffrire, incapace di morire. Le ricerchi attorno agli occhi ad indicare il pianto. Nessuno può vederli e nessuno io avrò accanto. Tutti vivono a metà e forse pensano ogni tanto. Brucio vita, riflesso d'un volto in un vetro. Molte creature offuscano la vista con il loro sembiante tetro. Vivo il mio ideale, ma i veri sono tanti. Confondo nel mio sguardo blu per poi passarmi avanti. Silicio, riflesso puro, sono nuovamente solo. Evanescente dallo sguardo duro. Volo come cera che si scioglie, ma proseguo col pensiero il mio volo. Solo, luce, l'altra luce s'assomma. Verme Dio tutt'uno, Dio pietà. Grida, sangue, due corpi, speranze disilluse, promesse disattese, sentimenti, lacrime, gioioso dolore malinconico dell'estasi mortale. Un abbraccio che tratta il corpo al suolo come un lancio. Sono un mistico eroe tragico, un titano altero, con occhio fiero, da sempre lotto contro il vero. Teso indomito, oggetto, ma mai soggetto. Perdente per la triste scelta d'un destino abietto. Dio giovane, a volte di bellezza rara. Altre cieco, volontario, fallito ma testardo. Eroe leggendario, ostinato, combatto. E attendo la fine dell'ultimo mio atto. Luce, l'altra luce s'assomma. Verme Dio tutt'uno, Dio pietà. Grida, sangue, due corpi, speranze disilluse, promesse disattese, sentimenti, lacrime, gioioso dolore malinconico nell'estasi mortale. Un abbraccio che prega il corpo al suolo come un lancio. Mescalina cruda Roma. Sarà cancellata e vi sarà grande chiarezza. Accomodati, la sacerdotessa ti ha visto, dagli la manina. Ti porterà nel clima giocoso, carnascialesco, ascetico, sotto la coltre del magma. Vieni con me, ti porterò a Cuccagna. Guarda come ci si guadagna. Merci scadute da riciclare, da servire ai banchetti nelle nuove tavole rotonde. Abbeati controllori dell'anima. Le spade nella roccia, se non le usi bene ti fanno strippare la coccia. Pentimenti, nuovi investimenti che accontentano sentimenti essenziali per la reazione nevrotica. Voglio carne che puzza, che non sia bionica, che non sia clonica, sintetica come la realtà, somministrando gocce di confusione qua e là. Perdi il lume della ragione e non puoi tornare a prenderla sulla luna, perché non sei furioso come Orlando, perché i cavalli alati sono stati dimenticati. Caro mio, spremi l'oleandro, addestrati un comando. Non esisti più, perché non ti penso più nell'onnipotente gioco dei dadi. Non eri altro che ciò che io pensavo di te, solo un'illusione, solo un attimo, un flashback errato, prodotto di consumazione. Guarda l'azione, soldati invisibili che ogni giorno combattono nei nostri campi mentali. Siamo terra della guerra infinita, sulla pelle del drago, in una condizione critica. pratico i concetti del grande corpo. Estraggo minerali dalle viscere della terra e taglio corto. Batte qualcosa tipo cuore nel pianeta vivo. Scava distillando, scava arrivo. Guado fiumi come nelle vene della terra. Organico come la chimica sapienza. Elementi trasmutanti, uno, due, tre. Fanti, cavalli e re. Chi fa per sé fa per me. Come in alto, così in basso. Tra fiumi di mercurio cerco il sasso. Sintetizzando mondi, prendo fuoco, divento acqua con estrema naturalezza. Mentre il vento asciuga la pelle, quando il sole brucia sulla coccia di un ribelle. Sentieri carnali, naturali, sulle grandi arterie individuali. Guarda cosa cova, ascolta cosa bolle nel matraccio dell'alcova. Esseri viventi, giochi sapienti, divertenti, macrocosmici solo per uomini potenti. Grande, grande, grande, tre volte grande. Non c'è niente nell'universo che non stia dentro di me. Elementi che periodicamente siedono alla mia tavola, bevono la coppa che gli tocca. Guarda come caccio materia prima dalla bocca. Guerre per ora invisibili che vedrai. Quando il fiore sboccia, quando il gallo canta, quando per sempre nel buio arderà una torcia. Vedere non capire la malvagità. Facile l'inganno, dubbi non ne ho. Prova ad annusare la tua verità. Questa è la mia storia, l'unica realtà. Vedere non capire la malvagità. Facile l'inganno, dubbi non ne ho. Prova ad annusare la tua verità. Questa è la mia storia. Straordinaria luminosità, più chiara della luce naturale, simile ad una folgore accecante. Gallauseu dice. Dice Jason Williams. E poi sarebbe Gallows Hill. Ma per quanto riguarda Sleep for Mods, non può essere che slang. 34 minuti dopo la mezzanotte, per cui noi vi ricordiamo innanzitutto 12 aprile un tango per Radio Onda Rossa, venerdì 12 aprile 2019 alle 22 al centro sociale occupato La Strada, via Passino. Augureria popolare, tango tradizionale, musicalizza. Sarà in funzione bar e notrega, disponibilità di autentiche empanadas. L'ingresso è a sostegno di Radio Onda Rossa 87.9, a sostegno anche della campagna 30 per 1000. Una tessera per un anno di Radio Onda Rossa, 30 euro per 1000 di voi. Centro sociale occupato, autogestito, La Strada, via Passino 24 a Roma, metro B Garbatella, autobus 673 716 715 670. Spin try. Quindi noi vi lasciamo così per questa sera. Abbiamo pronta già la scaletta della prossima settimana, dal momento che avevamo preparato molte più tracce di quelle che sono andate in onda, quindi basterà giocarci ancora un pochino. Inserire qualcosa che era rimasto fuori in questa scaletta, e mercoledì prossimo già saprete di cosa parleremo, e cioè di quello che di cui abbiamo cercato di dare una sensazione questa sera e che svilupperemo appunto poi la prossima puntata. Le programmazioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono qua, si riprende domattina dopo che vi terrà compagnia la compagna automatica sonata, con repliche e selezioni musicali alle 8 con la rassegna stampa delle prime pagine del giornale, rassegna stampa vera e propria, la stampa cittadina invece poi più tardi, i redazionali della mattinata. Alle 13 il GR di Radio Onda Rossa, alle 17 lo spazio comunicazione, 14 tutta scena cinematica blues, alle 16 oltre la black music, alle 17 le schiene del sole, alle 18 mezzete sì redazionali dei pomeriggi di Radio Onda Rossa, almeno lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Alle 20 tabula rasa, alle 23 l'apostasia, i cuginetti che chiuderanno il palinsesto sesto del giovedì, bella paizo, bella Foggis. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro, di qualsiasi colore siano, che ci ascoltano da in condizioni di limitata libertà personale, galera, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, tutti i decreti amministrativi che vi costringono e ci costringono a una vita limitata. There's no blind catch to a moody patch. It's all in the way. It's all in the way. There's no blind catch to a moody patch. It's all in the way. It's all in the way. Al solito cercheremo di produrre podcast della trasmissione, magari diviso con la corrispondenza iniziale anche di questa sera e di averlo disponibile nei prossimi giorni. Non possiamo che dirvi che noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, bella a tutti e a tutte, da Red Onda Rossa, dai. I'm down at the joke shop. I'll share our dreams under a communist